Friuli nel mondo, 227esima trasmissione dedicata ai nostri emigrati, a cura di Ottavio Valerio. Scrittori della nostra terra, Giuseppe Rupil, Enrico Fruc. Da varie parti viene frequentemente sollecitata l'audizione di testi poetici o di brani di prosa in friulano, già ascoltati in occasione di incontri in patria e all'estero con nostri emigrati. Si è pensato pertanto di iniziare una trasmissione che sarà alternata ad altre di argomento diverso, dedicata a poeti e prosatori del Friuli. Cominciamo con due scrittori della Carnia da tempo scomparsi, Giuseppe Rupil di Prato Carnico ed Enrico Fruc di Ludaria di Rigolato, entrambi per lunghi anni benemeriti insegnanti elementari e direttori didattici. Di Giuseppe Rupil ascolterete una briosa scenetta in versi, nella caratteristica parlata del paese d'origine dell'autore. È una preghiera che la madre fa recitare ai suoi bambini prima di andare a letto. Preghiera in latino, zeppa di strafalcioni, ma non per questo meno intensa di fede genuina, caratterizzante anche l'ambiente di gente povera. Il padre, naturalmente lontano, a lavorare palis germanis, nel quale la scenetta si svolge. La rosseon davant di là dormì. O e bisodeats, vignisa si uno a di las rosseons. Subesclets busarons, incenoclaisi qui da pedisi e davor di me. Angelus Dei, custo mei, mettimi sul comiso, impatate sul perno, e togio nella lumine in custodia iumichi, in reget in giberna amen. Mari, iei di fa la roia! Nasta là di forca veniu la ploia, e tu ca currassa di chian, sta ferm cun che man. Save regina madre misericordia, vita duceccio specie nostra save. Mari, mari, lubecca stunca la ciocula. Preve, preve maciulate tire iu che cotola. A te cramamus, oseli filideve, a te spiramus gente sette frente s'immacula. Via, mo via, nasta dormì tu cacu, ten su che il chiav Maria. Vacar un vale gioergo vocata, ma mi fai salignimata, vocata mostra, oculo tuo scoverto, castendo ca cremo capia, e Gesù sbite frutto so costende coca cremo capio, dolcissima virgola Maria. E begara, begara tu toni, toppari con calven, ti schiassara ben laga da stomide. Gnara me, gnara te, varracata, tasiat, tasiat, con che bocchiata, ad aramir tutte canta rosta, amen. Ma Mario, Mario, iai sen, sen! Cacu, quarta di forto, fradi, e tu Maria, mezzo il forca e il formadi. L'aida spoduti a dormì, e la sai chi io scufon, schiedi impidi aiutalons. Mari, alle scur, scur! Toit sulla lum di pin, e da spola sai la su schialin. Buinanot, buinanot pomari. Buinanot, buinanot canais. Farias lusen da Santa Cruz davanti alla sotto la pleta. L'aimo, l'aimo con Dio e con le benedizioni. Farà seguito ora una prosa dello stesso Rupil, di tono se vogliamo altrettanto vivo e caricato, ma ricco di colore domestico e commovente, nei versi che l'autore pone verso la fine del suo brano, come una specie di corot o canto funebre. Il da profundis durant un funeral. Chio Tina, va sulla linda mo da brava e tira denti che i pancizzi che saran sui az. Può far l'uplasia di mettintun sot l'uculutta di che frutta i quive che sarà tutta bagnata. Da spo, sentala sun che il bred al cula busa tan bombenta al miec, se no a sa fa sintoriave. Su da brasmo fis, intant cula int e al funeral di Biatnart, nua disin un da profundis. Fait lusen da Santa Cruasmo, in nomine patris, filio, spirito in sa. O con quella man l'ha fatto tupo? Con questa chi si fa la cruas? Ne già insegnato mari. Oh, brava, brava, cusimo, cusimo. Tornin a di, in nomine patris, filio, spirito santo. Amen. Bras, bras, i via sfatte del bomben che stavolta. Tasmo, tasmo, buina, cuda spoggi darai un cimi di petaco da sola bulifa. da profundi si incolmavite, domine. Domine soldi in borsa a meam. Ma c'è fase che frutta qui Dio su pannaz. Sociata, netta gita cotulutave, ne hai creanza fa che srubas. Netta la tu sona che tu spingudizi e che tu sia spinvalenda dia. Impiantar la tarundente in borsa in purgazioni sme. Ma purcitaz, sociaz, mi fai sapropidanà. Su tenti a lui aulu, su tenti al. N'avesa paura con lo signor su chiastea. Sine patate salvadias, domine, domine che sei ostinebut. Gesù Maria, c'è udur, c'è pucciata, da su tempin di guardia ve bacedata, nencia si crede divina, signora. Capo di te, propiziato d'este, proprio lese tua si ostinite, domine, ostinite anima mea in verbo dai, spurgavit anima mea sempre in domino. Ma iselun tu, ciò, Tina, chiala che frutti qui che davia insociati in toriave. Vattoli la scovacere, la scova di bedoia, netta la bescleta. Ma su svelta, da tua età ti sualavio, ma ci visi mangiato io che hai fiesta. Sono i fasoi a pestadizia di una sera, che so fas che sta srubas. Ma che sta puccia, a sa proprio di ciusi salmuediave. A custosa di mattina, un steco di notte, sperati osteri in domino. Ma biadazza, c'è plena che evade, se l'ha fatta in toria. Ma nasta muovici con la sdiambuta, tutti in socia sduta, sato. Gesù Maria, c'hai mai fatta tignisio io. Ciotina. Quarta campuccia di cinisa, e netta che frutta, po' su bescleta. Cacca, benedetta cacca, ta ferma con che manuta, Tina, manna tu viuasca, so c'è tatta man. E mettiù, cora, e cacca via le buine, ma vo che, c'è giambara di crima. Vai anche a donge, come. Anin, davanmo, come propita in mezzo tiera il biat muart, e noi componin una raganizza. Tiera mota, a partan bon, tai chiams e tai prats. Ma non nota che il sagrato, muarz mia di cor. L'usor, la cartufola sei fasoi, ai son enchialuar sot la tiera. Ma quanca torna la primavera, volunteira e torna for. Ma i nostri smuarz, ma i pinga e torna fa svidia in che sbrut mont. Nentia si va inda in plana gorna, o se l'utoral si fa staront. Ma come i fluars, cuda sottiera i salta for par giol di luz, così i muarz nostis. Alla pas vera saran nel premi dal cil metuz. Di Enrico Fruch, che sarà degnamente ricordato a Rigolato nel prossimo anno, centenario della sua nascita, già i suoi concittadini, su iniziativa del compianto Chino Ermacora e di Ottavio Valerio, hanno eretto un busto in bronzo alla sua memoria nell'agosto del 1949, ascolterete citazioni di alcuni sonetti. Veri quadri di ambiente e di vita friulana di un tempo. Antigais. La chiamare. Un ecocete lustre di noiar, e più lardi che lunghe. Un ecuviarte color naranz, quattro roses di chiarte, e due agni di ges sunt un armar. Un San Luigi cu la muse stuarte, e un San Martin cal svintule il tabar. Po sul sgabel une specche di mar, e une cotule sot da urde puarte. Ma c'è netizie i bleons, gli stindinis edut, e un paviment come un tair, e un profum di scornos e di lavande. Di une bande si viodin gli sculinis e la maline sul saletto in zir, e si cucin gli smonts di che altre bande. La partenze. Sofì plui grant e so marit son laz, e l'han lassate a chiase con la frutta. Son lazzi in France, a vore te sfornas, che urvevi in scritt che la stagion è butte. Par fal di spindi, si son rassegnati a vendi la di prime la vaciute. E ie, coi son partiz, io accompagnats con la frutine fin là de crosute. Sta bon, ten cont, sta d'ogne di topari, i di Samin. Tu as di vai, parcè, tu vi odis ben, figno, che non mi lagni. Quand che fuori in lontans la puare mari strenzin la frute al sen, mine, i disè, su, prein il Signor che io compagni. Fieste finite. La glesie a poco si è disvedate. Sul tor la chiampanute si quiete. Iesa partì dell'ultime carette di forest e la int si è slontanate. E han vendute com'ho l'ultime fette di angurie te baracche displantate, e a salutà la sagre che gli elade, alzire il moschettin cu la sunete. Ies fur de glesie un vieli calpendole e po biel planc lassand la puarte in sfese il capelan caltire sulla prese. Fintine mai che reste di bessole veroniche che conte i sant'Antonis, gli smedais di Leton e gli scoronis. Non si può chiudere questa trasmissione senza richiamare al ricordo dei nostri cari ascoltatori lontani i versi di Enrico Fruch, esaltanti l'arte, la civiltà, la storia e la gloria del Friuli. Versi ormai notissimi anche per la musica di cui ha saputo magistralmente rivestirli il compositore Don Oreste Rosso. Aquilee. Contadin, che tu rompis la tiare di Aquilee, fermi i bus un momento. Sott il chiamp che la guardi neare, sott la man che semè nel formen, tal soreli e tal ombre dal nur, gli è un'impronte di Rome, e la storie e la gloria del nestri Friul. Barcarul che tu vengs di Barbane, quand calzune l'antic chiampanil, no tu sintis un glon di chiampane, ma un evos che ti rive dal cil, e l'eterne peraule ti dis, un evos che traviarse la storie e la glorie del nestri paese. Pellegrine de ultime uere, mari sante del nestri soldat, che bessole tu entris la sere a prea sotto i pings del sagrat, scolte, scolte la iul rusignul, che ti quarte con tante dolcezze la chiarezze del nestri Friul. Tal seren di une clare mattine, ecco, e rit la marine la infonz, alzei voi, o giarnazie latine, sunche blanche corone di Monz, sul Friul, e ten fede all'idee che non mur, alla grande memoria e alla gloria de nestre Aquilee. Avete ascoltato Friuli nel mondo, 227esima trasmissione dedicata ai nostri emigrati, a cura di Ottavio Valerio.